Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Sulle pensioni resta aperto lo scontro tra CGIL e governo. Il 2 dicembre mobilitazione, dice Camusso dopo l'incontro. Istat rivede al rialzo le stime del PIL, più 1,5% quest'anno. Fisco, evasione in calo, riferisce il ministro Padoan. Il Libano mette in allerta l'esercito al confine con Israele. Domani il premier torna a Beirut. Tassisti in sciopero dopo il nulla di fatto nell'incontro con il ministro, presidio a Roma e alcuni diretti a Palazzo Chigi. L'assegnazione di EMA, si polemizza sul sorteggio e sull'Europa. Maroni, forse la diplomazia poteva fare di più. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, sempre 349-238-6666 per sms e messaggi su WhatsApp, la pagina Facebook di Radio 24 e la pagina Facebook di Effetto Giorno, dalle quali andiamo anche in diretta video e se volete potete come sempre commentare anche là. Dall'altra parte del vetro oggi Filippo Auregi in regia, Laura Faggin in assistenza e in redazione, iniziamo dunque e iniziamo dalle pensioni. Nemmeno l'ultimo tentativo del governo, che ha inserito nella versione definitiva aperture sui giovani e le donne, è riuscito a ricompattare il fronte sindacale. Nella promessa del premier Gentiloni di blindare il testo in Parlamento se ci fosse stato il sostegno di tutti i sindacati, CGIL e CISL e UIL restano divisi. Susanna Camusso boccia la proposta dell'esecutivo giudicandola insufficiente e definisce il confronto un'occasione persa e indice una mobilitazione per il 2 dicembre. La distanza che c'è tra le proposte di oggi, che sono più o meno equivalente a quelle delle occasioni scorse, e gli impegni che il governo aveva assunto nella seconda fase sono assolutamente evidenti. La CISL giudica invece positivo il percorso, in particolare sullo stop all'aumento dell'età pensionabile dal 2019, che dice scatterà per 30.000 lavoratori. Posizione più articolata quella della UIL, secondo la quale si è aperta una breccia sulla rigidità della legge Fornero ed è stato comunque fatto il possibile con le condizioni economiche date. Nessuna firma esce dunque dall'incontro di oggi. Il testo presentato dal governo e sostenuto dalle sole CISL e UIL verrà poi tradotto in un emendamento alla manovra. Il ministro del Lavoro Poletti: è naturalmente nostra intenzione fare in modo che i contenuti di questo dialogo, di questo confronto, diventino parte della legge di bilancio e quindi proporremo degli emendamenti alla legge in modo tale da poter cogliere questi dati. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. I dati economici di oggi diffusi dall'Istat, previsioni positive per il 2017, anzi riviste al rialzo, su questo parla anche il premier Gentiloni. Vincenzo Miglietta, ciao, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Dati quelli dell'Istat che indicano una stima di crescita per quest'anno all'1,5%, valore in linea con le previsioni di Palazzo Chigi e che risulta essere il più elevato dal 2010. L'Istituto di Statistica rispetto a maggio ha così rivisto al rialzo le indicazioni su quest'anno, che davano il PIL in aumento dell'1%, netta accelerazione poi sul 2016 che si chiuse, lo ricordiamo, con un più 0,9. Il miglioramento del PIL, aggiunge l'Istat, è atteso proseguire su ritmi analoghi anche nel 2018. 18 più 1,4%. Buone notizie anche per la disoccupazione, quest'anno il relativo tasso è atteso in moderata diminuzione dall'11,7 all'11,2%, anche se resterà ancora distante secondo l'Istat da quello della media dell'area euro. Fin qui Simone i numeri che soddisfano certamente il governo. Sentiamo allora il presidente del Consiglio Gentiloni. Il ritorno della crescita porta ad aumentare i posti di lavoro, a ridurre la disoccupazione. Questa sarà la sfida dei prossimi anni e trovo molto importante che oggi l'Istat abbia certificato che la crescita italiana di questo periodo corrisponde anche a un calo del nostro tasso di disoccupazione. Queste dunque le parole di Gentiloni, c'è poco da gioire per i dati sul mercato del lavoro, replicano però dalle opposizioni. Brunetta, Forza Italia, guarda alla media europea pari al 7,5% e dice siamo lontani da un valore che l'Italia non vede dall'ultimo governo Berlusconi. È tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento. Oggi ha parlato anche il ministro dell'economia Piercarlo Padoan davanti alla platea, una platea della Guardia di Finanza, e ha parlato di evasione. Inversione di tendenza sul fronte dell'evasione fiscale che finalmente diminuisce. In un contesto di crescita, con segnali positivi dall'economia che si rafforza in un quadro di netto miglioramento, come conferma anche il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni all'inaugurazione dell'anno di studi 2017-2018 che si apre per la Guardia di Finanza, ma c'è ancora molto da fare. E allora, misure concrete e numeri, ma anche i risultati del governo sul fronte della lotta all'evasione, snocciolati nelle parole del Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan. Si punta all'estensione della fatturazione elettronica anche tra privati. Un goal già arrivato a 2 milioni e mezzo di fatture registrate al mese. E a fronte degli oltre 190 miliardi di valore aggiunto generato secondo l'Istat da sommerso nel triennio 2012-2014, nello stesso lasso di tempo, Padoan sottolinea un importante cambiamento nel comportamento dei contribuenti, sempre più propensi a colmare il tax gap e a pagare i tributi. Si è però ridotta di 0,6 punti percentuali la propensione all'evasione fiscale al netto del lavoro dipendente, dal 33,5% del 2014 al 32,9% del 2015. Decimi di punti percentuali, ma passi avanti e in più spontanei. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di tasse, occupiamoci della Tari perché sono arrivati i chiarimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze su quegli errori di calcolo, chissà quanto voluti da parte dei comuni. Siamo in linea con Gianni Trovati del Sole 24 Ore per farci spiegare un po' meglio come funziona. Gianni, ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Sì, sono arrivati i chiarimenti, è arrivata la circolare attesa. Sostanzialmente dice che si possono chiedere i rimborsi anche degli arretrati, ma solo fino al 2014, data di nascita della Tari, mentre non è prevista la possibilità di chiedere i rimborsi per la Tares, cioè per l'anno prima, anche se funzionava allo stesso modo. Cosa devono guardare i contribuenti? Devono guardare direttamente le bollette e non i regolamenti comunali, perché spiega il Ministero, i regolamenti comunali, loro dicono, spesso non sono univoci. Vale a dire, nel caos delle regole non è chiaro se il regolamento comunale corretto si traduca poi in una bolletta corretta, che è quello che interessa i contribuenti. Cosa devono guardare? Sostanzialmente un aspetto: se il garage, la cantina, il solaio o qualsiasi altra pertinenza sono stati trattati insieme all'abitazione e quindi la quota variabile è stata applicata una sola volta, va tutto bene. Se invece la quota variabile è stata applicata in vario modo anche alle pertinenze, in aggiunta a quella applicata a quella della casa, va tutto male. Mm. E appunto a quel punto si può chiedere il rimborso. Grazie a Gianni Trovati del Sole 24 Ore per questo punto. Vi ricordo, come sempre in questi casi, tutti i canali aperti del Sole 24 Ore per poter chiedere chiarimenti, informazioni e anche molto semplicemente per cercarli e leggerli. È là che trovate tutto. Veniamo allo sciopero dei tassisti. I tassisti tornano in piazza per protestare contro le proposte del governo sulla riforma quadro del settore, proposte che, secondo i sindacati di categoria, deregolamentano il settore attraverso la liberalizzazione dei noleggi con conducente a vantaggio di Uber, l'app che mette in contatto autisti privati e clienti. I tassisti, ha spiegato Nicola Di Giacobbe della CGL Taxi ai microfoni di 24 Mattina, chiedono regole certe. Non abbiamo detto no alla tecnologia. Interrompiamo tutte le piattaforme che oggi stanno operando in maniera non legale, perché fanno intermediazione, non danno un servizio, non sono società di trasporto, sono delle intermediari, dei sensari. Lo sciopero è ingiustificato, replica il vice ministro dei trasporti Riccardo Nencini. Il mondo è cambiato, stiamo lavorando da 9 mesi con taxi e rappresentanti di noleggio con conducenti sulla riforma. Abbiamo a cuore l'interesse dei cittadini. Il governo, ricorda Nencini, ha già adottato un decreto contro l'abusivismo e ieri al tavolo abbiamo proposto regole per il settore e le piattaforme per evitare il caos. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Milano si lecca le ferite dopo la sconfitta di ieri per ottenere la presenza dell'Agenzia Europea per il Farmaco, che, come vi abbiamo raccontato, è andata ad Amsterdam al sorteggio. Sentiamo. Milano ha perso al sorteggio con Amsterdam la battaglia per EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali, per i mancati voti di alcuni paesi, tra cui la Spagna. La diplomazia italiana avrebbe dovuto fare di più, soprattutto tra la seconda e la terza votazione. Le parole del governatore della Lombardia, Roberto Maroni, ai nostri microfoni. Quello è stato il momento topico, diciamo. Tra la seconda e la terza bisognava convincere i 5 paesi che hanno votato per Copenaghen, almeno 2, ne bastavano 2 a votare a favore di Milano. Non critico però il governo, aggiunge Maroni, abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra. L'Italia ha perso un giro d'affari di 1,5 miliardi di euro l'anno, ma bisogna cercare di preservare gli sforzi fatti nel settore farmaceutico e della ricerca, anche perché il capoluogo lombardo conta, ricordiamo, su progetti forti come lo Human Technopole nell'ex Area Expo e la Città della Salute a Sesto. Ho apprezzato l'Italia per la sua preparazione a livello di paesi come Amsterdam e Copenaghen, il commento del direttore esecutivo di EMA, l'italiano Guido Rasi. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. All'estero ora resta molto alta la tensione in Medio Oriente. In Libano l'esercito entra in stato di allerta al confine con Israele. Alberto Negri. La messa in stato d'allerta dell'esercito libanese ai confini con Israele è una mossa più politica che militare. Il presidente cristiano Michel Aoun, alleato del partito islamico sciita Hezbollah, segnala che vuol respingere ogni tentativo di intromissione in Libano dopo la crisi con i sauditi e far capire che ha sotto controllo la situazione. La mossa ci riguarda direttamente. Nel contingente ONU che sorveglia il cessate il fuoco tra Libano e Israele, i militari della missione UNIFIL sono comandati dal generale italiano Roberto Sganga. Su 11.000 soldati, oltre 1.000 appartengono alla Folgore. Sono ore di tensione e attesa, domani è previsto il ritorno a Beirut del premier dimissionario Saad Hariri, l'uomo d'affari sunnita trattenuto per giorni come ospite ostaggio a Riyadh. Cosa sta accadendo? I sauditi, con la destabilizzazione del quadro politico libanese, mandano un segnale agli Hezbollah, soprattutto nei confronti dell'Iran, padrino politico delle milizie sciite. Impantanati nella guerra in Yemen, i sauditi hanno perso la partita in Siria contro Assad e ora cercano in Israele una sponda militare per mettere in difficoltà l'Iran e i suoi alleati. Il presidente Saviano Assad ha appena incontrato in Russia Putin, il leader del Cremlino. Domani organizza un vertice a tre, a Sochi, con Iran e Turchia. La Russia intende dettare la sua agenda per il futuro politico della Siria. Per evitare un'altra guerra, dopo la sconfitta dell'ISIS, Stati Uniti e Russia dovranno tenere a bada i loro alleati, altrimenti saranno guai. La politica, domani giornata decisiva per il centrodestra, la Corte di Strasburgo decide su Berlusconi. Il 27 novembre 2013 Silvio Berlusconi veniva estromesso da Palazzo Madama. 4 anni dopo da Strasburgo potrebbe giungere l'esito del ricorso presentato contro l'applicazione della legge Severino. Infatti domani la questione spinosa della candidabilità di Berlusconi approda nell'aula della Camera della Corte Europea dei Diritti Umani. Il punto centrale è la retroattività della legge Severino. Ci sono già dei casi precedenti. Per Bruno Contrada lo Stato italiano fu condannato e la Corte ricordò all'Italia come uno dei cardini del diritto sia essere giudicati ed eventualmente condannati secondo una legge in vigore al momento dei fatti. Così un pronunciamento di Strasburgo favorevole a Berlusconi darebbe certamente una spinta decisiva affinché l'ex premier possa tornare candidabile alle elezioni politiche di primavera. L'8 marzo 2018 scadono i termini della pena lui inflitta dai tribunali e il giorno dopo gli avvocati presenteranno la domanda per la sua riabilitazione. Per le elezioni politiche Berlusconi potrebbe giocare la carta della candidatura con riserva e in quel caso dovrebbe presentare domanda in 5 collegi e contemporaneamente arrivare fino alla Corte d'Appello per ottenere giustizia. Per Berlusconi la sala pare comunque non facile, ancora in salita. La cronaca, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine al momento contro ignoti e procede per omicidio colposo per la vicenda di una ragazza di 14 anni che è morta il 6 novembre scorso in ospedale, perché i medici del pronto soccorso dell'ospedale Pertini di Roma avevano qualificato il suo disturbo come stress, ma invece si trattava di un aneurisma cerebrale. Dopo un calvario di ore è stata trasportata anche in un altro ospedale e là appunto ha perso la vita. Vedremo se saremo in grado di aggiornarvi su questa vicenda, che degli ultimi minuti, almeno la notizia degli ultimi minuti, come avete sentito, risale in realtà al 6 novembre, nel corso di Effetto Giorno. La cronaca ci porta anche a Palermo, dove ci sono stati 27 arresti eseguiti in queste ore nei confronti di affiliati della criminalità organizzata, pizzo, droga, scommesse. Era il clan mafioso di Santa Maria del Gesù. Il racconto del colonnello dei carabinieri Antonio Di Stasio, al microfono di Cristina Carpinelli. Questa mattina è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Palermo su richiesta della Procura distrettuale di Palermo nei confronti di 27 persone indagate per vari reati come partecipazione a associazioni di tipo mafioso, estorsione, traffico di stupefacenti, rissa, furto, trasferimento fraudolento di valori, esercizio abusivo di attività di gioco e di scommessa. Viene colpita fortemente e ulteriormente la famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù, che è storicamente tra le più antiche e influenti di Cosa Nostra. Volevo registrare, a differenza di Borgo Vecchio, dell'operazione condotta qualche settimana fa, come questa volta non ci sia stata però la stessa collaborazione da parte dei commercianti e degli imprenditori. È per questo che invito, insomma, nuovamente loro a non cedere alla paura e ad abbattere questo muro di omertà affidandosi allo Stato. Lo Stato c'è, la dimostrano questi continui attacchi. Fidarsi allo Stato sia l'unico modo per liberarsi dal gioco del pizzo e sia l'unica strada percorribile, quella che ci hanno insegnato memorabili magistrati come Falcone e Borsellino. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro Giro d'Italia. Giro d'Italia che ci porterà innanzitutto a Roma. Voi lo conoscerete se siete romani o se siete stati a Roma, il famoso mercatino della Befana, dell'Epifania di Piazza Navona. È stato fatto un nuovo bando per questo mercatino e chi ha vinto? Ha vinto in gran parte la famiglia dei Tredicine. Uno dei Tredicine, lo sapete, è stato coinvolto nell'inchiesta su Mafia Capitale, è stato anche condannato e però confermano di fatto il loro monopolio su Piazza Navona. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi ricominciamo da qua. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per sms e messaggi su WhatsApp. La pagina Facebook dalla quale andiamo in diretta video, la pagina Facebook di Radio 24 è quella di Effetto Giorno. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dello scontro sulle pensioni, della revisione al rialzo della stima del PIL per l'Italia da parte dell'Istat. Siamo andati in Libano, che ha messo in allerta l'esercito al confine con Israele. Ci siamo occupati dello sciopero dei tassisti e ancora dell'assegnazione di EMA. La prima tappa del nostro Giro d'Italia, come già vi dicevo prima del traffico, ci porta a Roma, dove c'è questo mercatino. Beh, chi come me è cresciuto a Roma ne ha un ricordo fin da bambino, un momento topico del periodo natalizio. Si andava e si va a Piazza Navona perché ci sono le giostre, perché ci sono i dolciumi, perché ci sono dei giocattoli, magari si rimedia qualche regalino. Ebbene, questo mercatino di Piazza Navona è stato negli ultimi anni al centro di una serie di polemiche, perché dominato quasi interamente da una famiglia, la famiglia dei Tredicine, di cui uno degli esponenti è rimasto coinvolto nelle vicende di Mafia Capitale. Un dominio assoluto su questo mercatino e non solo su questo, su tutto un pezzo del mondo degli ambulanti romani. Succede che viene rifatto il bando, in realtà con l'obiettivo proprio di togliere questo monopolio, di eliminare questo monopolio. Ebbene, succede che col bando i Tredicine si riprendono, almeno in parte, Piazza Navona per i prossimi 9 anni. Andrea Coglia è presidente della Commissione Commercio in Consiglio Comunale a Roma. Buongiorno Coglia, benvenuto. Buongiorno a tutti. Cosa è successo? Allora, il bando che l'assessorato ha fatto quest'anno prevede i criteri minimi di anzianità, cioè sono 20% di anzianità e 80% qualità. Sembra dalle graduatorie che sono uscite ieri, verificheremo i punteggi, che in qualche modo qualche giornale l'ha denunciato, che molte di queste licenze siano andate, diciamo, alla famiglia che lei ha nominato, i Tredicine, più altre che dovrebbero essere in qualche modo collegate. Queste sono, diciamo, sarà oggetto di verifica. Dovrebbero essere collegate, lo dico io da giornalista, quelli che alcuni quotidiani descrivono come dei prestanome dei Tredicine, sostanzialmente, insomma. Sì, sì, il problema iniziale è questo, che le leggi non aiutano, perché le leggi permettono i monopoli oggi nel commercio su area pubblica, lo permettono tramite appunto la creazione di rami d'azienda e il fatto che non si possa intervenire su aziende e rami di azienda, come abbiamo invece cercato di fare nella delibera 30, nelle limitazioni dei posteggi per le famiglie anagrafiche. E una delle verifiche che andremo a fare, appunto, per famiglia anagrafica, quindi residenti nello stesso luogo, applicare questa limitazione, sì, che dovrebbe essere due posteggi. Ma non si poteva, Coia, glielo dico brutalmente, ma non si poteva far meglio questo bando proprio per evitare una cosa di questo genere? Guardi, allora, la prima scelta è stata se mantenere la festa tradizionale della Befana o no, e noi siamo andati nella prima direzione, perché come lei ha ricordi da bambino della festa della Befana, ce li ho anche io, c'erano tanti romani, quindi non vorremmo snaturarla e farla diventare una festa del food, street food o altre cose, insomma, come altri stavano portando avanti, e questo non ci piaceva. Abbiamo cercato di muoverci purtroppo all'interno del quadro normativo che ci forniscono le leggi, che è molto stretto e stringente, riducendo al minimo l'anzianità. Poi, ripeto, bisogna verificare anche l'attribuzione dei punteggi, perché ad oggi questo è sulla carta. Quindi andremo a verificare prima se questi punteggi corrispondono a verità, e poi ci sarà un controllo in sede appunto di partenza, per verificare appunto che vengano rispettate le prescrizioni che uno ha dichiarato di avere. Quindi ci saranno delle verifiche a questo punto, e queste verifiche verranno effettuate in tempo per sistemare eventualmente le cose per il mercatino di questa Epifania, o non ce la fate, Coia? Le verifiche sulla carta le faremo immediatamente, naturalmente, quindi quelle in loco dobbiamo attendere la partenza, quindi ci saranno due fasi distinte e andremo avanti. Quindi è inevitabile che almeno quest'anno il mercatino sia così, poi per gli anni successivi, qua si parla di 9 anni, si vedrà anche sulla base delle verifiche che farete. Non ne sarei certo, ho bisogno di qualche giorno per poter verificare gli atti, insomma, perché non sono anche copiosi, perché sono centinaia le domande che sono state presentate. Sì. Qua, come al solito, gli ascoltatori la mettono sempre in questo modo: dai, forza, dillo, ti pagano per questo, colpa della Raggi. No, guardi, abbiamo invitato appositamente un esponente del Movimento 5 Stelle, perché Coia, lei è dei 5 Stelle, no? Non è che insomma, per dare le spiegazioni e per cercare di capire che cosa effettivamente sia successo. Coia ce l'ha raccontato, vedremo che cosa succederà nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Parliamoci chiaro, il Movimento 5 Stelle, così come tutti i partiti politici, sono sempre dichiarati, o quasi tutti, fortemente contrari, no, al dominio di questa famiglia di Tredicine, quindi non abbiamo motivo di credere che ci sia cattiva fede da questo punto di vista. Lo stesso Luigi Di Maio, lo ricordiamo, si era fatto fotografare con uno dei Tredicine e poi aveva detto: occhio, però, dice, anche se mi rubassero 100 foto con uno dei Tredicine, per me questi rappresentano qualcosa che non voglio vedere. Quindi siamo tranquilli, non è una questione politica, è una questione di liberare questi spazi. Grazie Coia, Andrea Coia, Presidente della Commissione Commercio. Aldo Romaro dell'USB Veneto, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Allora, qua abbiamo nei vostri confronti delle accuse abbastanza precise che arrivano dall'arcidiocesi. Che cosa succede e di che cosa ci occupiamo? Ci occupiamo ancora una volta della questione dei migranti di Cona, o meglio della base di Conetta, che ammassati in quel modo orripilante che abbiamo raccontato più di una volta, in parte si sono mossi, in parte sono stati ospitati in strutture dell'arcidiocesi, nelle chiese, e in altri casi, come è successo un paio di giorni fa, sono stati rifiutati dall'arcidiocesi. Perché sono stati rifiutati dall'arcidiocesi? Perché l'arcidiocesi si ha detto: guardate che non si stanno muovendo spontaneamente da Conetta, ci sono i sindacalisti dell'USB che li stanno stimolando, gli stanno dicendo: uscite, andatevene da Conetta e lasciate questo posto. Romaro, innanzitutto la parola a lei per capire come risponde a quello che ha scritto la Chiesa. Allora, prima di tutto mi dispiace moltissimo di questa nota e stiamo richiedendo un incontro con la diocesi di Padova per chiarire la situazione. Sul fatto che qualcuno possa pensare che noi o qualcun altro abbia sobillato, istigato, è non fuori dalla realtà di più. Questa mattina stanno uscendo ancora. Romaro, adesso la faccio proseguire con la cronaca. A onor del vero le devo dire che abbiamo avuto ospite anche il sindaco di Cona Panfilio, che ci ha detto, non ha citato voi, per essere chiari, non ha citato voi, però ci ha detto più o meno la stessa cosa, ci ha detto una parte di queste persone viene sobillata per lasciare la base di Conetta, quindi a onor del vero glielo devo dire. Poi insomma, naturalmente anche ci saranno. Il sindaco di Cona, che ha fatto una battaglia lunga un anno per chiudere Conetta, e l'ha fatta in modo demagogico, cioè senza proporre nessuna alternativa, nel momento in cui l'alternativa arriva dagli stessi ospiti che si rifiutano di stare ancora ammassati in un posto che li fa impazzire. Ho qui davanti a me un certificato del servizio psichiatrico dell'ospedale di Chioggia, della ASL di Chioggia, che certifica un caso di sindrome paranoide dovuto al sovraffollamento di coma. Quindi, di fronte a questa cosa, si illude il sindaco. E si illude il vescovo. Però Romaro, mi faccia dire una cosa. Da questi microfoni abbiamo sempre denunciato che quella situazione come una situazione allucinante. Mi faccia dire, in difesa di una persona che non è al microfono in questo momento, che è il sindaco Panfilio, che non è il sindaco Panfilio che deve provvedere a capire quale possa essere la soluzione per le persone che stanno nella base di Conetta, e questo lo sa anche lei. Dall'altra parte, insomma, le dico, ecco, esattamente questo è il punto, cioè non è lui che deve provvedere, e non è una soluzione il fatto che loro lasciano e vengano ospitati nell'arcidiocesi, cioè qua c'è un problema di assenza dello Stato. Ha fatto una cronaca sbagliata, se mi permette, mi fa parlare? Sì, prego. Lei. Allora, la questione è questa: l'altro giorno un gruppo di ospiti della struttura di Cone, martedì scorso, ha deciso di uscire dalla struttura e ha deciso di incamminarsi, di fare una marcia di protesta. Questa marcia di protesta, giusto per capirsi, anche perché gli ascoltatori capiscano chi siamo e come lavoriamo, io ho il mio lavoro, per cui sono stato avvisato di questa cosa, loro sono usciti alle 8 di mattina, io sono riuscito a raggiungerli, finito il lavoro alle 6 quando ho smontato dal mio posto di lavoro, e c'ero soltanto io, tra l'altro, grande strumentalizzazione, non riesco a capire dove sia. Con questi li abbiamo aiutato, abbiamo dormito assieme nel parcheggio di Santa Margherita Codevigo, cioè un parcheggio di camion dove 100 di questi hanno dormito per terra nelle coperte. Il giorno dopo siamo riusciti a fare 2 chilometri perché eravamo stati fermati dalla polizia, e siamo arrivati a Codevigo la sera. A Codevigo c'è stata ospitalità da parte della chiesa, e di questo va dato atto e la ringraziamo, non a nome mio, ma un letto ce l'ho, ma a nome dei richiedenti asilo che stavano lottando. E il giorno dopo sono stati ospitati provvisoriamente per una notte dalle strutture parrocchiali di Venezia, sì. E anche di questo va dato dato, e anche di questo vanno ringraziati per questo. E il giorno dopo è stata trovata la soluzione da Minniti, cioè è stata trovata la ricollocazione in altre strutture. Sì. Va anche detto che di questo. Romaro, però sì. mi perdoni. Sì. Lei mi conferma quindi quello che dicevo io, è che non è che allora non è una soluzione il fatto semplicemente di uscire da Conetta, non è una soluzione che può trovare il sindaco. Era una soluzione che doveva trovare il Ministero dell'Interno, che alla fine l'ha trovata sulla spinta del fatto che queste persone sono uscite. Dopodiché, adesso il problema reale che c'è è: usciranno tutti alla spicciolata assieme perché non hanno alternative? Perché qui in Veneto i posti di richiedenti asilo ospitati attualmente sono più di 11.000. Questi che sono ospitati in strutture provvisorie, perché lo Stato dovrebbe rispondere entro tre mesi, alla loro domanda di asilo politico. Lo Stato risponde in mesi 30 invece che in mesi 3, nel frattempo stanno in strutture provvisorie. Poi ci sarebbero le strutture definitive, di cui una volta riconosciuto il diritto all'asilo o alla protezione, sì. E quindi spannometricamente si parla di 4-5.000 in Veneto, cioè è un flusso, però avrebbero diritto a essere accolti finalmente nelle strutture che si chiamano SPRAR, dove avrebbero la possibilità di imparare l'italiano, cosa che nelle strutture temporanee straordinarie ovviamente non possono, è chiaro. No, in alcuni casi succede, in alcuni casi di strutture esemplari succede, ma generalmente non succede, e avrebbero la possibilità, dovrebbe essere data loro la possibilità di ricollocare la propria professionalità nel tessuto produttivo. Nel tessuto produttivo. Romaro, allora io guardi, adesso devo andare a chiudere. Ho solo bisogno di un'informazione da lei. Ci sono più casi come quello che mi ha citato del certificato che lei ha in mano, cioè di sindrome paranoide da sopra? No, uno solo. Uno solo al momento, è chiaro che poi le verifiche vengono fatte. Voglio chiarire una cosa agli ascoltatori che ci stanno scrivendo, e quelli che dicono sono migranti economici. Guardi che il problema è proprio nell'identificazione se siano migranti economici o no, perché come ci ha raccontato ottimamente Romaro, quando una procedura che dura 3 mesi per capire se uno è un rifugiato politico oppure no, ne dura 30 di mesi, ti trovi per forza in questa situazione. Il tema è come funziona tutto questo, è tutto il meccanismo che evidentemente è inceppato. Grazie ad Aldo Romaro dell'USB Veneto per essere stato con noi. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi ci ritroviamo subito dopo. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi, i nostri titoli. Sulle pensioni resta aperto lo scontro tra CGIL e governo. Il 2 dicembre mobilitazione, dice Camusso dopo l'incontro. L'Istat rivede a rialzo le stime del PIL, più 1,5% quest'anno, fisco evasione in calo, riferisce il ministro Padoan. L'assegnazione di EMA, si polemizza sul sorteggio e sull'Europa. Maroni riferisce, il premier Gentiloni è molto arrabbiato con la Spagna che appunto ha dato voto contrario. Il Libano mette in allerta l'esercito al confine con Israele, domani il premier torna a Beirut. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo, eccoci di nuovo. Allora, prima di andare a chiudere abbiamo tempo per un attimo, 3 minuti di jukebox delle notizie. Ci chiedete informazioni sul sottomarino argentino, quello disperso nell'Atlantico. Abbiamo brutte notizie in realtà da quel lato, perché si è diffusa nella notte l'informazione che in realtà i segnali che sono arrivati da in mezzo all'Atlantico, dalle zone nelle quali si stava cercando questo sottomarino, non corrispondono a quelli di un sommergibile e quindi presumibilmente era un qualche altro tipo di segnale che non sappiamo esattamente quale fosse. L'altra notizia sulla quale ci chiedete informazioni, ed è giusto anche tornarci perché è una questione della quale ci siamo occupati tantissimo e che abbiamo lasciato un po' indietro, anche perché è normale che la giustizia faccia il suo corso, ed è la vicenda delle due ragazze che hanno accusato due carabinieri di stupro a Firenze. La vicenda la ricorderete bene. Quello che vi possiamo dire è semplicemente che domani c'è un'udienza importante, proprio nella giornata di domani, è l'incidente probatorio, quello appunto nel quale le due ragazze dovrebbero confermare il racconto che hanno fatto. Prima di chiudere andiamo a parlare dei costi dell'illegalità per il mondo del commercio nel 2017. Ci sono dati diffusi oggi dalla Confcommercio in un'indagine di GFK Italia, 28 miliardi e mezzo di euro con una crescita del 3,3% rispetto all'anno scorso. Il direttore dell'ufficio studi Mariano Bella, intervistato da Cristina Carpinelli. Nonostante che ci sia un calo dei reati, la percezione di insicurezza, la percezione di criminalità da parte degli imprenditori, soprattutto del terziario di mercato, rimane molto elevata. Cioè, per il 30% questa riduzione dei reati non si è vista. Il terziario di mercato perde oltre 28 miliardi di euro di fatturato a causa di furti, rapine, abusivismo, contraffazione, estorsione, usura. C'è una mappa, diciamo, dell'Italia? Ci sono delle zone più buie, delle zone un po' più virtuose su questo fronte, sulla legalità? C'è una percezione particolarmente negativa sulla contraffazione nel centro, in particolare in Toscana. E poi purtroppo ci sono le solite tragiche accentuazioni che riguardano il mezzogiorno del paese. Non so, l'esperienza diretta di vittimizzazione a causa delle estorsioni è del 9% nella media Italia e del 16% nel mezzogiorno del paese. E di oggi la notizia di 27 arresti a Palermo, e parlando col colonnello che ha seguito appunto questa operazione mi diceva che rispetto a qualche mese fa i commercianti questa volta non hanno collaborato, quindi non hanno voluto denunciare chi gli chiedeva il pizzo. Anche su questo bisognerà lavorare. Certo, noi come Confcommercio diciamo che denunciare si deve, si può e conviene. Ed eccoci qua, prima ancora di chiudere, avete ragione, abbiamo fatto la jukebox delle notizie, ma non per la vicenda che è stato e continua ad essere ad essere il nostro tormentone per tutto l'anno scorso, sia la vicenda di Igor, ossia Norbert Fehr, il fuggiasco assassino del barista di Budrio e di Valerio Verri, una guardia ecologica, scomparso nelle campagne del Ferrarese, ricercato con un dispiegamento di forze enorme e probabilmente sparito e andato all'estero. Le ultime che abbiamo sappiamo è che ci sono state 50 segnalazioni complessivamente di persone che hanno visto Igor da quando è scomparso, e ovviamente non se ne è trovata traccia. E le ultime ci raccontano che la procura militare di Verona ha aperto un fascicolo senza reati né indagati per approfondire i contorni del mancato arresto di Igor. Sulla vicenda, vi ricorderete, c'eravamo tornati e ve l'avevamo raccontata, il fatto che stando a racconti messi anche agli atti ci sono dei carabinieri che l'avrebbero fatto sostanzialmente passare, hanno chiesto alla centrale se intervenire oppure no, vedendolo passare, vedendolo uscire dal suo fiorino, entrare in un bosco, rientrare nel suo fiorino e poi riuscire per riandare nel bosco. Hanno chiesto: dobbiamo arrestarlo? No, aspettate rinforzi, e da quel momento è sparito. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.